Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Gruppi di azione locale, ovvero in sigla GAL. Chi abita soprattutto in zone rurali avrà probabilmente sentito nominare questo acronimo. Ce ne sono 14 nel Veneto che coprono con le loro attività circa i 2/3 del territorio regionale. Ma che cosa sono questi gruppi di azione locale? Quando sono nati? Perché e che cosa fanno? Ne vogliamo parlare oggi con la dottoressa Loredana Margutti, coordinatrice dei GAL regionali ma anche nazionali. Esiste anche un sito internet all'indirizzo www.gal.veneto.it per chi vorrà poi saperne di più. Benvenuta, dottoressa. Intanto buongiorno, grazie di questa opportunità che ci offrite. Allora, chi sono i gruppi di azione locale? Esattamente. Sono un modello organizzativo che è stato sperimentato dall'Unione Europea, voluto dall'Unione Europea e sperimentato a partire dal 1991. Sono dei soggetti misto pubblico-privato con varie forme giuridiche e comunque hanno questa conformazione, quindi sono i soci, sono rappresentati da portatori di interesse collettivo, pubblici e anche privati. Diciamo che nel Veneto hanno iniziato ad operare con un unico GAL a partire dalla prima programmazione di Deruno e trasformandosi via via a seconda delle programmazioni fino a questo appunto dove abbiamo 14 GAL nel Veneto e 192 in Italia. Quelli che li unisce un po' è l'ambito rurale, dicevo prima, chi abita in zone rurali forse ne ha sentito parlare. Sì, diciamo che in questi gruppi di azione locale operano in un territorio circoscritto e ben definito che è un territorio a vocazione rurale, non è che siano, cioè, perché l'obiettivo è quello dello sviluppo rurale e locale e quindi non parlano solamente di agricoltura ma parlano di un contesto a 360 gradi, quindi è fondamentale che i GAL, oltre ad essere costituiti da soggetti pubblico-privati, abbiano anche un territorio di competenza con il quale e sul quale e per il quale individuano una strategia di azione locale che poi si realizza attraverso una serie di finanziamenti di progetti e di interventi sul territorio. Quindi nel Veneto stiamo parlando dell'area della bassa pianura e anche dell'area montana. Diciamo che i nostri GAL sono diffusi in tutta la regione, solo la parte centrale è quella meno toccata e proprio per questo tra l'altro la Regione Veneto ha individuato un'altra modalità che sta sperimentando, che sono i programmi integrati d'area rurali, PIA rurali, che appunto occupano soprattutto questa parte centrale del Veneto che comunque deve avere le caratteristiche che hanno gli altri territori GAL e quindi essere aree a prevalente quantomeno interesse economico rurale. Ecco, quali sono un po' le iniziative che riuscite a promuovere? Allora, diciamo che le strategie, la strategia che il GAL individua e che viene condivisa ovviamente con il territorio è una strategia di sostegno allo sviluppo rurale del territorio e che va non solo al sostegno quindi ad aziende agricole per l'ammodernamento, per creare dei punti vendita, per far sì che queste aziende accorcino anche la filiera trasformando i prodotti, ma anche sull'agroambiente, ma soprattutto diciamo che le azioni sono concentrate sull'asse 3 che è quella del miglioramento della qualità della vita e della diversificazione che quindi prevede degli interventi che sono realizzati o da aziende agricole perché fanno fattoria didattica piuttosto che fattoria sociale, sempre da aziende agrituristiche perché fanno ospitalità, ma soprattutto itinerari con la promozione, con l'accoglienza, con pacchetti turistici e al recupero del patrimonio rurale. Ci sono però anche delle altre azioni che si estendono e che riguardano invece la parte del sociale e quindi sono azioni che in genere sono realizzate comunque da soggetti pubblici in collaborazione con le ASL. Ecco, rispetto ai piani di sviluppo rurale, che sono un'altra cosa, ma si integrano? Allora, il piano di sviluppo locale è una parte, perché i GAL sono nell'ambito del programma di sviluppo regionale, rurale regionale, certo. È la SEQUART, 4, no? Quindi tutte le azioni dei GAL del Veneto sono coerenti con il programma di sviluppo rurale della regione e hanno le stesse regole e le stesse applicazioni quindi sul territorio, solo che sono appunto riferite ad un'area circoscritta di competenza che è quella appunto della GAL. Certo, ci fermiamo per alcuni minuti, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Mi servirebbe sapere la strada è già per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male ed alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male. Forse alla fine mi piace un po' così, soffrire e farmi abbandonare qui, deciditi. Oh! Ti piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza per dotarmi di pazienza. In fondo mi è che è piaciuto a me una dita. Allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Torniamo in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando dei gruppi di azione locale e ne stiamo parlando con la coordinatrice veneta Loredana Margutti. Dicevamo che cosa sono questi gruppi di azione locale, che cosa promuovono, chi allora può, diciamo, avere i benefici di questi piani, come funzionano? In genere i fondi che sono messi a disposizione, quindi che sono accantonati, diciamo, per finanziare i programmi di sviluppo locale, vengono poi attivati dai GAL, quindi con delibere, insomma noi siamo considerati alla stregua di soggetti pubblici, pur essendo dei soggetti appunto misto pubblico privati e in genere civilisticamente siamo soggetti privati. Ecco, vengono in genere attivati tramite bandi oppure tramite una modalità che si chiama regia GAL, in cui individuiamo già un beneficiario, un destinatario che è un soggetto portatore di interessi collettivi. Chi sono i nostri beneficiari? Allora, ripeto, dalle aziende agricole alle aziende agrituristiche, ma anche agli enti pubblici, ma anche alle microimprese. Una apposita misura, che è la misura 312, che è stata attivata in genere da quasi tutti i GAL, si rivolge a tutti coloro che, secondo la definizione dell'Unione Europea possono essere considerate microimprese e quindi va a sostenere quelle micro, la nascita o lo sviluppo di microimprese che possono operare o nell'ambito del commercio, nell'ambito dei servizi al turismo, ovvero nell'ambito dell'artigianato e così via. Questa è una scelta che viene, è stata lasciata ovviamente a ciascun GAL, l'individuazione delle codice, diciamo, di attività a cui si rivolge e che è specificatamente collegata alla strategia che il territorio insieme al GAL hanno individuato. C'è qualche progetto particolare che è stato o che è in programma che ci vuole segnalare nell'ambito regionale o quello che più? Beh, diciamo che di progetti ognuno di noi potrebbe, come dire, mettere in vetrina il suo progetto più ambizioso. Diciamo che io non focalizzerei tanto sul progetto quanto sulla capacità e sul lavoro che i GAL fanno affinché questo progetto, i singoli progetti, siano collegati tra loro e messi in rete proprio per aggiungere quel valore all'investimento che è stato fatto, che è il valore del sistema territorio. I bandi che lei citava, quando usciranno e dove si può trovare l'informazione? Allora, diciamo che ormai siamo in fase di arrivo perché siamo già alle porte della programmazione 2014-2020. Noi ad esempio come GAL Padovani abbiamo dei bandi che scadranno all'inizio di luglio e che riguardano proprio la parte della promozione delle attività. Quasi tutti i GAL sono nella nostra stessa condizione perché purtroppo le procedure che sono state previste sono molto lunghe e quindi dal momento in cui i bandi vengono attivati, le misure, insomma i fondi vengono attivati dai GAL tramite una delibera dei consigli di amministrazione, devono trascorrere come minimo 230 giorni affinché ci sia il decreto di AVEPA, che è l'agenzia della Regione Veneto che è un ente pagatore che segue la procedura secondo quello che è stato previsto, insomma, dalle modalità, dagli indirizzi procedurali della Regione, e quindi considerato che questi sono tempi molto lunghi e entro il 31 dicembre 2013 noi dobbiamo aver impegnato tutto, tutti i GAL ormai, diciamo, stanno ultimando le procedure, bandi, sì. Quindi diciamo che siamo proprio alla fine. Quando si parla di importo, di che cosa si sta parlando? Per avere un'idea? Di un fondo pubblico che è a fondo perduto, che noi mettiamo a disposizione per cofinanziare, certo, i progetti, e che può andare da un minimo del 30% fino ad un massimo del 100% per alcune azioni finanziate agli enti pubblici. Benissimo. Ci dobbiamo fermare, abbiamo conosciuto oggi questa storica in realtà iniziativa che però forse è poco nota dei gruppi di azione locale e la ringraziamo. Ringraziamo noi voi e anche per l'azione di informazione che ci aiutate a fare. Benissimo, grazie allora dottoressa. Buongiorno. Passiamo ora ad alcune notizie. Al termine della settimana verde svoltasi a Bruxelles dedicata alla qualità dell'aria, l'Unione Europea ha proclamato il 2014 anno europeo dell'economia verde. La Green Economy sarà dunque il tema conduttore del prossimo anno, con l'obiettivo di far sì che l'economia europea possa vivere sempre più in armonia con la natura, a cominciare da un uso più efficiente delle risorse che determini una riduzione dell'inquinamento dell'aria e dell'ambiente. Sempre in ambito europeo, la Commissione europea ha approvato la restrizione dell'uso di 3 pesticidi appartenenti alla famiglia dei neonicotinoidi, clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam. I 3 pesticidi utilizzati nel trattamento delle piante e dei cereali che attirano le api e gli impollinatori sono stati identificati come dannosi per la popolazione delle api in Europa. La restrizione entrerà in vigore a partire dal dicembre 2013 e sarà riesaminata al più tardi entro 2 anni. Il prossimo 5 luglio al Parco Scientifico Vega di Marghera, in provincia di Venezia, si terrà un workshop aperto al pubblico sul tema «L'industria agroalimentare incontra l'impronta idrica», un evento che intende mettere a confronto gli operatori economici del settore agroalimentare e i massimi esperti mondiali in tema di risorse idriche. Le risorse idriche, lo ricordiamo, sono un bene comune fondamentale e sono messe a rischio non solo dal consumo diretto, ma soprattutto dall'alterazione dell'acqua utilizzata nei processi legati all'industria e all'agricoltura. Al seminario interverrà in collegamento da Londra il professor Tony Allan, il padre del Water Footprint, ovvero l'impronta idrica, un indicatore che misura il consumo diretto, lo sfruttamento indiretto e l'inquinamento delle acque. L'incontro è organizzato dal Dipartimento di Green Marketing di AISM, l'Associazione Italiana Marketing, e dal Consorzio Venezia Ricerche. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al sito internet www.aism.org. Chiudiamo con un invito a chi sfrutta la bella stagione per una visita in Cansiglio. Ricordiamo che è possibile visitare 3 siti di particolare interesse naturalistico ed etnografico, aperti anche sabato e la domenica. Si tratta del Giardino Botanico Alpino Giangio Lorenzoni e il Museo dell'Uomo in Cansiglio, Centro Etnografico di Cultura Cimbra. Entrambi sono aperti da lunedì al venerdì e poi anche il sabato e la domenica, con un ingresso per gli adulti di 3 euro, 1 euro per i minori di 26 anni e gratuito per i minori di 14 anni. È gratuito invece l'ingresso al Museo Ecologico Zanardo, curato dal Corpo Forestale dello Stato, anche questo aperto dal mercoledì al venerdì al pomeriggio, sabato e domenica tutta la giornata. Quest'ultimo museo rimane aperto fino al 22 settembre. Tutti e 3 i siti rimarranno aperti anche a Ferragosto. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento la prossima settimana con il quadrifoglio. Vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.